Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ilaria Tutti è conosciuta come autrice di thriller ambientati nelle montagne del Friuli, con protagonista il commissario Teresa Battaglia. Aveva esordito con Fiori sopra l'inferno, poi era arrivato Ninfa dormiente. Ora Ilaria Tutti è in libreria con Fiore di roccia, pubblicato anche questo da Longanesi. Non è un giallo, è un romanzo che si ispira a fatti veri, o meglio proprio a persone realmente esistite, le cosiddette portatrici carniche. Chi erano le portatrici carniche? Beh, erano delle donne che durante la Prima Guerra Mondiale si arrampicavano sulle montagne del Friuli portando nelle gerle queste ceste che venivano legate alle spalle, insomma quasi a mo' di zaino, diciamo così, portavano appunto cibo e munizioni per i soldati che si trovavano appunto al fronte. La protagonista di questo romanzo è Agata, una donna veramente giovane, ha una ventina d'anni, insieme ad alcune amiche inizia a fare appunto la portatrice. Ilaria, la storia delle portatrici carniche appunto è una storia vera, ma è una storia tutto sommato poco conosciuta. Per te era vicenda nota perché fa parte appunto della storia della tua terra, o anche tu hai scoperto, diciamo, cose che non conoscevi? No, io la conoscevo e fin da piccolissima. Fa parte un po' di tutto il sentimento, la cultura, la tradizione e la memoria dei friulani. È verissimo che oltre i confini regionali delle portatrici si sa veramente poco. Forse ecco, i grandi appassionati di storia, di Prima Guerra Mondiale, sì, le conoscono, ma le altre persone no, ed è un grandissimo peccato. Io ho amici che hanno avuto nonne e bisnonne, per esempio, portatrici, e quindi di questi racconti ho sempre sentito parlare, e fino a quando mi sono detta bisogna anche fissare nelle parole questo ricordo in modo che possa essere trasmesso più facilmente. Effettivamente, per quanto mi riguarda, ammetto l'ignoranza, era una storia che non conoscevo e ho scoperto veramente tante cose, anche perché poi nella postfazione tu fai riferimento a quali sono state le persone vere che ti hanno ispirata. Siamo naturalmente nell'Italia del primo Novecento e appunto siamo durante la Prima Guerra Mondiale, le donne sono abituate a vivere una situazione subalterna rispetto agli uomini. E infatti Agata, la protagonista del tuo romanzo, dice a un certo punto: da sempre siamo abituati a essere definite attraverso il bisogno di qualcun altro. E poi in un altro punto dice: che cosa voglio fare? Non me l'ha mai chiesto nessuno. Queste sono donne povere che subiscono come tutti la guerra, quindi soffrono la fame, eppure a un certo punto si chiede loro di compiere un'impresa epica. Ti sei domandata, ti sei chiesta, hai ricostruito perché si pensò proprio alle donne? Le donne erano le uniche rimaste assieme ai bambini e agli anziani nei villaggi. Il comando logistico italiano aveva bisogno di aiuto perché l'esercito italiano era rimasto isolato in vetta, si era ritrovato a dover combattere su montagne impervie senza ripari, con le trincee ancora da costruire e nemmeno una mulattiera per salire. E quindi a un certo punto veramente rischiavano di morire anche di stenti, ma da subito sotto i colpi del nemico, e quindi ci fu questa chiamata che riporto anche nel romanzo e che è un fatto vero. Un ufficiale entrò in una chiesa durante la funzione, andò al pulpito, si rivolse al prete e lanciò questo grido d'aiuto a cui solo le donne potevano decidere di rispondere, perché solo loro erano rimaste. E infatti a questo grido d'aiuto risponde Agata insieme alle sue amiche, c'è Viola, Lucia, Maria, Caterina, sono donne di tutte le età. Poi si unirono a loro, insomma, anche altre donne, dalle ragazzine, dalle adolescenti fino alle donne, insomma, un po' attempate. È molto bella la scena in cui per la prima volta Agata e le sue amiche arrivano sopra, sostanzialmente dai militari, dagli alpini, con queste gerle piene di cose, insomma, gli alpini hanno una reazione un po' stranita, innanzitutto perché sono donne e dicono e pensano e dicono: voi non sapete nulla della guerra. Quindi all'inizio sono diffidenti, poi però lentamente nasce la stima e soprattutto il rispetto per il lavoro di queste donne. Sì, questo è vero e mi è stato raccontato da più fonti che all'inizio i militari, i soldati italiani non erano felicissimi di ricevere questo aiuto. Proviamo a immaginare un uomo dell'epoca già provato con la tensione del conflitto, di questi corpo a corpo terribili che li vedeva soccombere, vedere queste donne arrivare al fronte con questi gonnelloni lunghi, i fazzoletti in testa, gli scialli e gli zoccoli o gli scarpezzi ai piedi. E il primo pensiero era: ma queste cosa pensano di fare? E invece erano donne che salivano e scendevano a quelle montagne fin dalla tenera età, ce l'avevano nel DNA, nel sangue da generazione, ed erano veramente le uniche che potevano in quel momento aiutarli, e per fortuna le hanno fatte, perché se quella parte di fronte ha retto oltre 2 anni è stato grazie a queste donne. Ecco, hai citato gli scarpez, queste scarpe tradizionali che erano fatte in velluto. C'è una scena in cui sostanzialmente poi queste donne, queste portatrici, Agata e le sue compagne, dovranno cucire degli scarpez anche per i militari, perché è uno dei modi migliori per arrampicarsi su quelle montagne. Ecco, sembra quasi strano che delle scarpette di velluto siano più efficaci e adatte degli scarponi militari, invece era così. Sì, era una saggezza popolare, era il bisogno che in qualche modo aiutava l'ingegno. Quello avevano a disposizione, avevano vecchie sottane da tagliare, da cucire assieme per fare le suole strato su strato, questo velluto un po' più morbido per avvolgere il piede, eppure con quelli loro facevano tutto da quando erano bambine, da quando erano anziane. Erano donne che erano abituate a provvedere tutto, a tutta l'economia della casa, gravava letteralmente sulle loro spalle. Quindi loro con queste scarpezze e queste gerle facevano tutto e si occupavano anche della fienagione in questi declivi, in questi prati praticamente verticali, che io ho provato a salirli e vi assicuro che la fatica è veramente tanta, eppure loro lo facevano con pesi rilevanti sulle spalle. La scena degli scarpez è vera, è un fatto storico. A un certo punto, per prendere un tratto di trincea occupato dagli austro-ungarici in vetta, gli alpini si sono affidati proprio a queste calzature povere, che però erano quelle della tradizione popolare con cui queste genti salivano sulle vette da generazioni. Ecco, le donne che accompagnano Agata, insomma, in questa missione, a tutti gli effetti è una missione militare, sono donne che fanno tante cose, ovviamente, nella vita. Siamo in periodo di guerra. Agata per prima si prende cura di un papà malato che è quasi catatonico, insomma, deve accudirlo sostanzialmente in tutto. Sua madre, che faceva la maestra, invece è morta. Hanno tutte, insomma, un passato e una situazione anche piuttosto dolorosa. A un certo punto Agata, per definirsi, dice che pensa di essere anche lei una gerla, scortecciata dalla vita fino a che è rimasto solo il necessario, incisa da perdite, spellata dal bisogno. Ecco, che stato d'animo vive il tuo personaggio, la tua protagonista Agata, nel momento in cui decide di accettare questa chiamata, appunto, dei militari? Beh, senz'altro aveva paura, come tutte queste donne. Si racconta di loro che quando salivano cantavano, pregavano e cantavano, ma non erano i canti erano le famose villotte friulane, no? I canti della tradizione popolare. Si parlavano d'amore, di leggerezza, delle feste, delle tradizioni dei villaggi, e potevano sembrare dei canti di gioia. In realtà cantavano per non sentire tuonare le granate nemiche sopra la testa, perché una caratteristica di queste portatrici carniche era quella di raggiungere proprio le prime linee, le trincee, perché ci furono anche alcuni casi di portatrici nel cadore, però si fermavano prima nelle retrovie. Invece loro andavano fino alla prima linea, rischiando anche di cadere sotto i colpi dei cecchini, come poi accadde realmente per una di loro, purtroppo. E infatti nel tuo romanzo si racconta ovviamente tutto lo scenario di guerra, quindi ci sono i cecchini, c'è il nemico, anche perché la Prima Guerra Mondiale era stata soprattutto una guerra di posizione. Spesso i due fronti appunto si studiavano, si fronteggiavano per giorni, per settimane, per mesi, prima di fare degli attacchi reciproci e magari conquistare semplicemente pochi metri di territorio. In tutto questo contesto noi vediamo Agatha, appunto, e le sue amiche, le sue compagne che arrivano dagli Alpini in cima alla montagna. Qui incontrano il capitano Coleman, che è un personaggio veramente bellissimo. Anche lui all'inizio ha dei modi un po' bruschi, poi invece veramente prova del rispetto profondo non solo per Agatha ma per tutte le altre, tant'è vero che c'è quella scena molto bella, lo posso dire perché insomma è quasi all'inizio, in cui regala loro una stella alpina, il fiore di roccia appunto che dà il titolo al tuo romanzo. Che personaggio è Coleman, visto che poi nella postfazione hai detto che ti sei comunque ispirata anche qui a persone realmente esistite? Coleman è una sintesi di capitani di cui ho letto nei testi che ho consultato, che hanno combattuto sul Palpiccolo, che è l'ambientazione principale del mio romanzo, ma anche sul Monte Festa, che vedo da casa mia, per esempio, da Gemona. È un personaggio importantissimo perché è appunto la sintesi di persone vere, ecco perché io sento un grande senso di responsabilità ad aver scritto questo romanzo, perché parla di vite vere. Ed è la sintesi anche di tutti gli uomini che nei decenni, per oltre un secolo, si sono preoccupati di farci arrivare le notizie delle portatrici. Perché se fosse stato per queste donne, di loro non si sarebbe saputo nulla, perché loro non si sentivano eroine, non si sono mai atteggiate e anzi parlavano molto poco di ciò che avevano visto al fronte, perché era stato per loro un'esperienza traumatica e dolorosissima, anche se l'hanno condotta fino alla fine. E sono stati gli uomini, sono stati gli alpini in particolare, che ce le hanno veramente care nel cuore, a trasmetterci ciò che loro hanno fatto, il valore, il rispetto che questi ragazzi avevano imparato a nutrire per loro e a considerarle veramente pari a loro in un'epoca in cui non era assolutamente scontato. A proposito di personaggi maschili, mi viene in mente però, come dire, l'altra faccia della medaglia. Mentre il capitano Coleman è appunto un uomo tutto d'un pezzo, anche carico di rispetto nei confronti di queste donne, c'è questo Francesco, il figlio dello speziale, che cerca di corteggiare, ma veramente in modo aggressivo, Agatha. Insomma, era uno stalker di quei tempi, mettiamola così. E a un certo punto Agatha dice: mi disturba perché è estraneo alla fatica. Ecco, Francesco Maier è il simbolo della prepotenza dell'uomo, del maschio, che poi si sviluppa in tutta una serie di cose che naturalmente non raccontiamo. Sì, è un uomo che a un certo punto, guardandogli le mani, Agatha pensa: non sono mani che si possono intendere con le mie, perché le sue sono rovinate, sono piene di schegge, la terra è entrata nelle ferite, è diventata parte di lei. Con questo uomo invece ho raccontato l'altra faccia, no? di un'epoca in cui le donne potevano essere soggette veramente alla sola volontà maschile, ai capricci di un uomo. Però vediamo come tenessero anche testa a questi tipi di maschi, lo vediamo attraverso Agatha, non senza pagare un prezzo anche di paura, com'è tutt'oggi. Quindi alla fine sono situazioni che purtroppo si rincorrono nei secoli, non siamo ancora riuscite a liberarci da un certo modo di pensare. Ecco, sicuramente Agatha e le sue compagne, queste portatrici carniche realmente esistite, erano delle donne veramente toste, ecco, possiamo dire così con un termine non esattamente elegantissimo. Però ecco, a un certo punto il capitano Coleman alza un po' l'asticella, cioè loro non devono più portare solo cibo, munizioni, tra l'altro trasportavano anche esplosivo, quindi veramente rischiavano la vita non solo per i cecchini, ma rischiavano di saltare in aria. A un certo punto il capitano chiede la pietà di riportare, diciamo, a valle anche i cadaveri dei soldati. Ecco, anche su questo ti sei ispirata a fatti realmente accaduti. Sì, loro lo facevano, ma non solo, loro avevano aiutato a costruire il cimitero, perché quello del paese non era abbastanza capiente per tutti i morti che avevano cominciato ad arrivare. costruivano le tombe, quindi di questi soldati si occupavano anche di dare l'estremo saluto assieme al prete del villaggio, e li portavano anche con delle barelle improvvisate, li portavano anche a valle, ma questo non erano fatti isolati, e purtroppo, specialmente nei primi mesi della guerra, accadeva spesso. Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con Fiore di roccia, pubblicato da Longanesi. Grazie Ilaria. Grazie a te, grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Vengo a prenderti di Paola Barbato, pubblicato da PM, è il terzo volume di una trilogia thriller. O meglio, come la definisce la sua autrice, dobbiamo parlare di una polibiologia. Ora vi spiego il perché. Diciamo che all'inizio è arrivato Io so chi sei, poi il romanzo gemello Zoo, quindi stessi personaggi, storie parallele, e ora questo Vengo a prenderti, che è sostanzialmente il finale che vale per entrambi i romanzi precedenti. Allora, proviamo un po' a identificare i vari romanzi con le storie e i personaggi. Diciamo che posso dire che nel primo c'era una ragazza, Lena, il suo fidanzato Saverio, un ragazzo un po' scapestrato, era scomparso, forse annegato nell'Arno. Lei inizia a ricevere una serie di strani sms con elementi che solo Saverio appunto conosceva. Poi c'è il secondo volume, vado veramente in sintesi estrema, Zoo, e c'era Anna che si risveglia in una gabbia in un carrozzone da circo, e insieme a lei ci sono altri prigionieri umani. Arriviamo appunto a Vengo a prenderti, ritroviamo Lena, Anna, e c'è anche Alessandra, fidanzata di Lucio Donadio, lo psicopatico che aveva appunto imprigionato 14 persone in questa gabbia. Non sto facendo spoiler perché siamo veramente all'inizio del romanzo, quando l'agente di polizia della Polizia di Firenze, Francesco Carpazzo, scopre sostanzialmente queste gabbie e libera i 9 superstiti su 14. Donadio, il colpevole, viene ucciso, ma insomma si deve far luce sull'accaduto. Per esempio, si deve far luce sul fatto che la fidanzata di questo psicopatico, Alessandra, è scomparsa. Partiamo da questa Alessandra Gatteschi, è un personaggio veramente inquietante. Tu parli anche della sua infanzia, dici di che era nata per esempio con il labbro leporino, però al di là di questo era una bambina e diventa una donna anche fisicamente molto brutta. Che personaggio è? Alessandra è un personaggio che io ho amato molto tratteggiare, perché lei ha un'apparenza che respinge, quando invece è una persona assolutamente accogliente, cresciuta da una madre invasata dalla sua predisposizione al mostrare la retta via agli altri, e quindi anche lei portata a cercare di vedere tutto ciò che di buono potrebbe fare o potrebbe diventare, in contrasto con un aspetto che la rende prima un po' spaventosa agli occhi degli altri bambini: le mancano 4 denti incisivi, quindi ha una protesi, però insomma tra bambini sappiamo che la crudeltà è uno dei mezzi di rapporto più, insomma, più praticati. E poi insomma anche da adulta viene identificata sempre come quella brutta, quella troppo alta, quella col naso prominente, che quindi la buona volontà contro l'aspetto. Ecco, sicuramente Alessandra è un personaggio inquietante, non solo per l'aspetto, ma anche poi per una serie di cose che accadono. Ti ricordi il primo momento in cui hai pensato ad Alessandra? A che particolare di lei hai pensato? Ma è un personaggio che è ricorrente, perché è comparsa anche in Io so chi sei. Certo, ovviamente. Infatti abbiamo detto che sono tutti personaggi chiaramente ricorrenti, forse però in quest'ultimo romanzo prende un peso preponderante. Certamente, comunque quando è comparsa la prima volta è comparsa in seconda linea, non è comparsa come personaggio che viveva l'azione, ma come chi assisteva all'azione, comunque era testimone delle vicende di Lena. Ed era esattamente l'opposto di Lena, perché Lena è una ragazza molto bella, molto ben inserita, che dovrebbe avere tutte le certezze di questo mondo, e invece non è capace neanche di lavarsi i denti da sola, per essere proprio terra a terra, per capirci, proprio una donna profondamente insicura e profondamente indecisa. Per contro, Alessandra, che invece avrebbe tutte le ragioni per provare grandi insicurezze, è lì a confortare Elena, è lì a sostenerla, a indicarle per l'appunto il comportamento giusto, l'atteggiamento giusto, ed è un po' la spalla, la classica spalla dell'amica forte di fianco all'amica debole. Ecco, in tutti questi tre romanzi, secondo me c'è un elemento comune, cioè il fatto che le cose non sono mai come sembrano. Ecco, perché c'è questo elemento proprio del ribaltamento dei piani? Perché io credo davvero, ma l'ho sempre creduto, che non esista una verità, che non esista un punto di vista. Noi stessi, se veniamo descritti da nostra madre, siamo in un modo, se veniamo descritti da un'amica, siamo in un'altra, da un collega di lavoro, siamo in un'altra maniera ancora. Io stessa ho incontrato persone che mi erano state descritte in un modo e poi le ho trovate diverse. Eppure non mente nessuno. In questo io cito sempre Rashomon o Pirandello. La realtà è che non esiste una verità. Esistono tante verità che a volte possono sembrare in opposizione le une con le altre, ma che fondamentalmente invece possono coesistere. E questo l'ho voluto riportare nel romanzo proprio per dire che la stessa vicenda, vista da punti di vista differenti, da angolazioni differenti, può assumere sembianze molto molto contraddittorie anche, eppure appartengono a un'unica realtà, perché l'unica cosa che è reale è il fatto, poi il fatto viene interpretato. Ecco, il romanzo nero secondo te si presta più di altre forme a questo ribaltamento dei piani, a mettere in evidenza, per esempio, come possa essere anche molto labile il confine fra bene e male? In realtà sì, anche perché c'è più elasticità nel romanzo, che non vuole essere consolatorio, non promette e non promettendo può anche non mantenere. E il fatto che spesso siano spiazzanti questo tipo di storie o che mettono magari il lettore nella condizione di riconoscersi in un personaggio scomodo, spiacevole, sgradevole, è per me una grande forza, perché in realtà queste posizioni è difficile assumerle in storie un po' più canoniche o che rientrino in altri generi, perché insomma alla fine quasi tutti i lettori vogliono la consolazione e noi ci possiamo permettere il lusso di non dargliela. Un altro elemento comune fra questi tre romanzi è che c'è naturalmente, sono dei romanzi crudi, ci sono delle scene crude, però spesso la violenza più che essere esplicitata è suggerita, quindi diventa ancora più inquietante perché, come dire, crea un tarlo nella mente del lettore. Immagino chiaramente che questo sia un effetto voluto dallo scrittore, quindi da te. Ma io ho sempre pensato che immaginare qualcosa la renda sempre peggiore che vederla. Assistere a un fatto tremendo o ricostruirlo nella propria mente, ha due pesi, sono due pesi diversi. Io ho sempre immaginato delle cose terrificanti, ho sempre avuto tantissima paura di ciò che posso sognarmi la notte, mentre viceversa ho vissuto sicuramente delle difficoltà concrete, reali, anche abbastanza spaventose in certi casi, ma hanno avuto un impatto diverso. Forse perché quando siamo consapevoli di quello che stiamo vedendo, che stiamo leggendo, che ci stanno raccontando, ci possiamo difendere. Se invece siamo noi stessi a raccontarci qualcosa, le difese sono un po' meno preparate, meno pronte. C'è da dire che l'inquietudine, appunto, anche questa è un tratto, diciamo, fondamentale dei tuoi romanzi. E ricordo anche che tu, oltre ad essere scrittrice di thriller, sei sceneggiatrice dei fumetti, per esempio, di Dylan Dog. Quindi, insomma, l'inquietudine regna un po' sovrana nelle tue parole. Io dico sempre la verità, che io non sono una persona serenissima, quindi in realtà l'inquietudine mi appartiene proprio per natura. Tendenzialmente io ho paura di tutto, ho paura di tutti e ho imparato a convivere pacificamente con la mia paura. So che c'è, invece che combatterla, lascio che mi passi attraverso, prima o poi se ne va. E questo inevitabilmente si riflette sia nelle cose che scrivo che, devo dire, nelle cose che leggo e che guardo, perché poi alla fine, una volta addomesticata, la paura può essere anche piacevole, insomma, è la base di chi guarda o legge film o libri dell'orrore, di chi fa esperienze magari estreme, particolarmente spaventose. Insomma, le montagne russe alla loro base hanno il piacere della paura. Allora, è ovvio che non possiamo dire tantissimo di questo romanzo perché sennò veramente togliamo il gusto. Io ci sono anche dei personaggi che non posso neanche citare, non posso neanche dire che ci sono in questo romanzo perché sennò già magari si capisce qualche cosa. Però quello che possiamo dire è che sostanzialmente in questo Vengo a prenderti, l'agente appunto di polizia Carpazzo cercherà di chiarire un po' i contorni di questa vicenda poco chiara, chi era il mandante, chi erano le vittime, chi erano i carnefici, cercherà anche di fare luce sulla vita appunto dei sopravvissuti. Possiamo dire qualche cosa a questo riguardo senza far capire troppo? Beh, senza andare troppo a fondo, i sopravvissuti sono tutte vittime. Il fatto che loro siano delle vittime non fa di loro delle persone edificanti. E quindi se noi abbiamo provato pena nei loro confronti, magari nei romanzi precedenti, improvvisamente abbiamo delle altre luci che inquadrano altre cose e forse alla fine tutta questa solidarietà che il lettore aveva nei loro confronti viene a decadere anche in maniera un po' brusca. E quindi ci spiazzi di nuovo come lettori, perché ho detto c'è un ribaltamento sempre costante dei piani e non dico che le vittime diventino carnefici, questo no assolutamente, però insomma c'è appunto una sfumatura diversa nel modo di considerarli. Senti, nella postfazione, nei ringraziamenti, tu hai definito questi tuoi tre romanzi come essere sulle montagne russe. Scrivere è stato un po' come essere sulle montagne russe. E ora ti mancano? Mi mancano, sì. Mi mancano, anche perché questo, teniamo conto, è un universo che io ho attraversato per 3 anni. Non è una storia, insomma, le storie di solito hanno un loro arco di vita nella stesura e dopodiché a un certo punto le lasci andare. Qui io non ho lasciato andare nulla per tanto tempo e quindi questo piccolo universo ha attraversato la mia vita costantemente, perché non l'ho mai lasciato andare. Quindi in questo momento quella che è orfana sono io, perché in realtà i libri stanno continuando a vivere, vanno fuori, incontrano persone nuove, vengono letti, interpretati, vengono immaginati. E io invece sono qua, sono rimasta sola, ho un intero piccolo universo malvagio che se n'è andato rotolando per i fatti suoi. Avrò bisogno di qualcosa di consolatorio ben presto, Ecco, ma quindi tu, credo che mi rimetterò a scrivere presto una sera. sicuramente. Ecco Paola, ma tu avevi già presente fin dall'inizio l'evoluzione della storia dei personaggi o work in progress, i tuoi personaggi ti hanno suggerito delle svolte che non prevedevi? Guarda, io quando scrivo un libro, qualunque libro, io inizio dal finale e anche quando scrivo una serie di 3 libri collegati, io parto dal finale. Anche perché, Quindi insomma, io ho sono tre sempre... libri molto complessi, sia nella Ma storia. sì, però io ho sempre saputo, diciamo così, sono 3 strade che partono da un unico crocevia. Io il crocevia l'ho sempre conosciuto. E dove avrebbero condotto queste 3 strade che si sarebbero inevitabilmente riunite alla fine, lo sapevo. Dopodiché, lungo il percorso, tante cose si sono evolute diversamente, tanti personaggi hanno mostrato delle potenzialità più grandi di quelle che avevo attribuito loro, oppure magari si sono anche spenti o sgonfiati, perché anche questo succede, di puntare molto su un personaggio e poi man mano che lo scrivi dire, beh, in fondo non è poi così interessante. Però sì, devo dire che avevo davanti come un enorme trittico su cui avevo fatto tutte le prospettive, bene o male i punti di fuoco, e poi era tutto da dipingere, questo è certo. Grazie allora a Paola Barbato, ora in libreria con Vengo a prenderti, pubblicato da PM. Questo è il terzo volume di una trilogia thriller, polibiologia, chiamatela un po' come volete, che era iniziata con Io so chi sei, proseguita con Zo. Voi potete leggerli nell'ordine che volete, perché sono comunque romanzi anche a sé stante. E grazie allora Paola. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltare in podcast queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Siamo presenti sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.